Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. È per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio. È per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre. È per te la campanella a scuola. È per te ogni cosa che c'è. Ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è. Ninna na, ninna e. Dunque, in tanti anni ormai che faccio questo mestiere, raramente mi è capitato un momento così emozionante. Allora faccio outing. Questo è Giovanotti, è per te ed è per me un privilegio, un onore salutare oggi in questo giorno Elisa Di Francesca. Ciao Eli, grazie. Ciao. Allora ti lascio questo Giovanotti, è un mio ricordo personale. E anche qui faccio outing, la Ninna Nanna che cantava mia figlia Enrico ormai molti anni fa. Mamma mia, dai. No, bello, molto emozionante. Tra l'altro nomina anche il 13 dicembre, dovrebbe essere la data di nascita della figlia, e è la mia data di nascita. No, rinascita è un altro, la data di nascita della figlia di Giovanotti che ha appena avuto 18 anni, a proposito auguri anche a lei. 30 luglio invece è la data di nascita di Ettore e sì. Io non so quali parole utilizzare se non un grazie per essere qui con noi a parlare per la prima volta pubblicamente da neomamma. Immagino che, anzi so perfettamente come un vagone di medaglie d'oro di qualunque olimpiade o mondiale eccetera non vale un istante di quello che stai vivendo, no? No. Puoi solo dire sì, certo. No, non c'è paragone anche perché è successo tutto in poco tempo, non ho avuto neanche modo di capire che ero in travaglio, sì. Perché le contrazioni le ho vissute fuori dalla struttura ospedaliera con un cornetto e cappuccino e poi da lì sono andato direttamente in vasca. E in meno di un'ora, in 40 minuti, ho partorito. Pronti via. Tu hai sempre, insomma, la scherma da questo punto di vista ti avrà insegnato anche qualcosa. Sì, certo. Mi ha insegnato a spingere, ecco, quando senti il dolore spingi. Sarebbe stato controproducente non spingere e poi, soffermarsi sul dolore. E poi per un atleta il dolore is nothing, no? Bravo, sì. La cosa importante è stata quella. Hai avuto qualche istante per sbirciare i mondiali del tuo regno? Sì, io ero in attesa di Ettore, da un momento all'altro potevo partorire, quindi sono stata davanti alla televisione, davanti al computer tutto il tempo, ho visto tutte le gare. Che mi dici? Sono andati benissimo. Che mi dici? Dico che sono bravi, c'è ricambio, sono felicissima per esatto. L'Italia, esatto. Perché questi giovani sono in grado di portare avanti il nome della scherma italiana e di tramandare quello che abbiamo lasciato, no? Abbiamo lasciato, io non l'ho lasciato perché tornerò, però... Questo mi sembrava chiaro, no? Sta claro. Sì. Però appunto, parlando nei giorni scorsi, dicevo che il dato politico che emergeva da questi mondiali di scherma era appunto il fatto che hanno certificato un ricambio generazionale in atto, fermo restando che monumenti come Federica Pellegrini e Elisa Di Francesca sono ancora al top. Intanto hai da fare. E io di nuovo ti saluto e ti ringrazio e ti mando un bacio grandissimo, ovviamente più grande a Ettore che a te. Grazie. grazie. Ciao, un bacio. Ciao. Elisa Di Francesca. Ma ragazzi, sarò un cuore di pietra, ma mi sono emozionato davvero nel sentire Elisa Di Francesca, prime parole pubbliche da quando appunto ha vissuto il momento più bello della sua vita. Giorgio De Luca, il nostro autore, si è emozionato anche lui. Filippo Reggi no, perché lui è un uomo, cioè, di marmo dentro e fuori. Adesso da Elisa Di Francesca Neo Mamma ci tocca saltare, ma lo facciamo con grande piacere, verso Neymar, e lo facciamo con un grande ospite che vedo in linea, un amico, un collega molto importante. Ne sto aspettando un altro di amico, collega molto importante. Fronte brasileiro e fronte spagnolo di questa trattativa che oggi si è conclusa. Saluto innanzitutto Leonardo Bertozzi di ESPN Brasil. Ciao Leo. Ciao amici. Come da noi buongiorno, da voi buon pomeriggio. Grazie per avermi convocato ancora una volta. Ah, ma grazie a te Leo, grazie a te. Senti, che si sta vivendo in Brasile per il movimento del giocatore simbolo di questa epoca del calcio brasiliano? Guarda, si vive con molta ansia, no? Perché di Neymar si aspettano molte cose, si aspetta che sia lui il grande protagonista del prossimo titolo mondiale del Brasile, quello che manca dal 2002, dopo di quella vergogna che è stato nel mondiale del 2014 col 7-1, su Neymar e su questa nuova fase con Ciccio al comando, si spera molto. Così che a un anno dei mondiali che cambi squadra Neymar è una cosa molto, molto importante, però sì, è una cosa che si credeva che prima o poi andava a succedere. Di Neymar non si sperava che fosse uno di questi uomini squadra, uno di questi che passano 10-20 anni nella stessa squadra, perché dal primo giorno Neymar è stato pianificato per essere un numero uno. Sì. Si sa che il Barcellona è il numero uno. Si dovrebbe aspettare un po' di più, certo, adesso che Messi ha il nuovo contratto. Beh, ma d'altra parte avevano messo un prezzo, no? Leonardo, avevano messo 2-2-2, sì, vai lì, paghi quella cifra e insomma te lo devono dare per legge. Sì, piuttosto, proprio, secondo te, dal punto di vista del giocatore, è già un uomo che può da solo cambiare le sorti di una squadra, che sia nazionale brasiliana o il Paris Saint Germain? Perché su questo io ho qualche dubbio. Ci si crede perché è un talento pazzesco e sai che in Brasile c'è molto orgoglio di questi giocatori, e poi se andiamo a guardare la lista dei vincitori del pallone d'oro, del premio della FIFA, c'è sempre stato il brasiliano, e da troppo tempo che non c'è, no? da quando c'era Romario, poi Ronaldinho, poi prima Ronaldo, Rivaldo, Kaká. Già da 10 anni che non c'è il migliore al mondo qui in Brasile. È una cosa che guarda, per noi è molto importante, per l'orgoglio del calcio brasiliano, e si sa che all'ombra di Messi è un po' più difficile. Poi se arriva al PSG riesce a cambiare l'importanza della squadra, riesce a vincere un gran titolo, e di questo certamente che si parla di una Champions, mi pare inevitabile che questi premi li vinca lui, se ci riesce. È vero che se li vince col Brasile anche può vincere questi meglio, premi, sarebbe, no? Meglio, no Leo? Senti, invece mi incuriosisce tantissimo la figura del padre di Neymar, sì, che in una settimana, per chi non lo sapesse, ha incassato 56 milioni di euro, perché 26 milioni dal Barcellona per il rinnovo del contratto come agente, quindi gli hanno detto ok, se rinnovi 26 per te. Poi 30 milioni 5 giorni dopo dal Paris Saint-Germain per il trasferimento. Morale 56. Figura controversa. Appunto, mi dici che è il padre di Neymar? Che tipo è? È quello che si sa, è che la volontà di Neymar padre è quella che vale, più di quella di Neymar figlio. In verità lo fa quello che decide il padre. Bisogna ricordare che in Brasile è una cosa che si parla molto, che era già promesso al Barcellona ben prima del 2013, quando è andato, perché settimane prima della finale del Mondiale Club Santos Barcellona 2011 si è poi saputo che Neymar padre aveva già ricevuto un bonus di 10 milioni di euro per promettere Neymar a Barcellona. Così, quando 10 milioni per di andare. Mamma mia, sì, 10 milioni per farti una promessa. Sì, soltanto per fare questa promessa Dunque, il Barcellona li paga 10 milioni di euro e il giorno che decide di lasciare il Santos deve andare al Barcellona o li deve restituire al club questi 10 milioni. È andato alla fine, è stata una decisione del padre. Il padre decide quasi tutto di lui, si vede. Il Barcellona ha fatto questo deposito dei 26 milioni bloccati dalla giustizia perché li vuole contestare poi. Però la verità è che le cose le fa sempre ben fatte il padre di Neymar, decide lui, la verità è che decide lui, Neymar andrà sempre dove decide il padre. Neymar è uno che mi pare solo preoccupato a giocare a calcio, a fare le sue apparizioni, le sue feste, però le cose dei business, queste tutte del padre. Senti Leonardo Bertozzi, hai altri due minuti? Perché io ho il traffico. Certo, poi vorrei approfondire questo aspetto perché non mi sembra un elemento positivo per la carriera, la vita di Neymar, il fatto che papà dice tu vai lì e lui ubbidisce come un bambino dell'asilo. Traffico, torniamo. Tutti convocati. Convocati. Sempre con noi e lo ringrazio Leonardo Bertozzi, ESPN Brasil, voce, volto notissimo. E stiamo parlando di papà Neymar che decide i destini del figlio, che Leonardo mi sembra che una figura un po' così, un po' contraddittoria e controversa, non mi sembra esattamente il papà di Kakà ingegnere. Sì, no, io lo è. Guarda, questo qua aveva già a 12-13 anni dei contratti pazzeschi col Santos, già con gli sponsor, così che è stato pianificato già come un'opera di marketing, no? E certo, per essere un'opera di marketing bisogna anche giocare e essere un talento pazzesco come lui è. Però questa cosa è già una macchina di soldi per il padre dal primo giorno, così certo. L'ho visto e sarà sempre così, è per questo ti dico, non lo vedo Neymar come un uomo squadra di dieci anni, questa è la parola, sicuramente tra 4-5 anni uscirà anche del PSG, andrà all'altra squadra, io lo vedo che fa una carriera un po' come la di un meraviglioso amante, non uno che non sposa nessuno. Per grandi maglie. Senti, ma però sappiamo quanto vale l'operazione Neymar da parte di chi tira fuori i soldi, ma tu hai un'idea vaga di quanto ti può portare Neymar dal punto di vista economico? Cioè, non so, merchandising, cioè cosa tu paghi quei soldi, che cosa ti può tornare? Cioè, sono molti front, no? Qui in Brasile già dall'inizio il PSG è una squadra che sui social ha molti follower, anche c'è uno studio che dice che ci sono più follower in Brasile che anche in Francia. Certo, c'è una popolazione molto maggiore qui, però sì. È un dato importante. Ci sono due catene, anche la nostra ESPN, però un'altra catena che fa le partite del campionato francese. Questo è l'ultimo anno del contratto dei diritti. Per l'anno prossimo sicuro che ci sarà un'asta in Brasile da pazzi. Ma le partite già sono in un'altra fascia di aspettativa, già il sabato che si annuncia la partita con l'Amiens, anche se non ci sarà Neymar c'è già un'aspettativa di vederlo presentato, poi le altre partite, qui si segue molto la Premier, qui si seguono molto Real Madrid, Barcellona, un po' come tutto il mondo, però il PSG adesso sale di importanza, sarà la squadra un po' più seguita. Adesso il contratto quanto vale, se non sono indiscreto? Guarda, questi numeri non li ho, mi dispiace. No, ma figurati, chiedevo per chiedere. Senti, facciamo parlare Enrico della provincia di Cuneo, è un argomento che appassiona tantissimo anche l'Italia, non solo il Brasile, quello di Neymar. Poi ti lascio a te la risposta a questo nostro ascoltatore, 800240024, poi ti ringrazio e ti lascio andare a lavorare. Enrico, buongiorno. Buongiorno Zenta, buongiorno a lei, buongiorno anche a suo. Leonardo Bertozzi, un califfo del giornalismo. Dica. Senta, io più che altro della vicenda di Neymar volevo sottolineare che comunque questa cosa sancisce la definitiva morte di qualsiasi credibilità della UEFA con il discorso lei si riferisce al fair play finanziario, no? Cioè, esatto. Ai paletti che hanno messo, alle leggi che è così facile aggirare. Leonardo, tu la pensi così? Guarda, se come nasce il fair play finanziario per limitare un po' queste spese, ormai con questi fatturati, no, che cioè fra poco avremmo, tra non molti anni ci saranno fatturati di 1 milione di euro per delle squadre più forti, sì. Così che se limitiamo le spese con base ai fatturati non serve a nulla, perché i fatturati ci sono. Bravo, esatto, no, ci sono, esatto. delle squadre, così che dobbiamo pensare ad altre possibilità, no? Si vede che si parla molto di salary cap, di limiti per le rose, cioè, qualsiasi cosa deve essere fatta, perché questo modello attuale del settore finanziario è malo solo per le piccole, perché le piccole non hanno come arrivare a questi fatturati, però i parametri devono cambiare assolutamente. Però sì, però io sono dell'idea che chi ha i soldi deve poterli spendere, e questo ci conduce ad altri ragionamenti, cioè tipo Superlega Europea che faccio tutti i giorni. Leonardo, ti ringrazio molto da Obrazeo, grazie mille Leonardo Bertozzi di ESPN Brasil, e noi torniamo a disturbarti, Leonardo Bertozzi, ESPN Brasil. Per l'appunto, la domanda che ha ora posto Enrico, nostro ascoltatore, io la rivolgo invece a uno dei principi del foro dei agenti procuratori, Fabio Parisi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sancisce qualcosa il trasferimento di Neymar? Io ti dico subito la mia, secondo me non è indicativo e non può essere un parametro di riferimento per null'altro. Ma sai, è eclatante per le cifre, è eclatante per il modo, è eclatante per tutto, però siamo abituati che ha cominciato il buon colonnello Blatter a fare delle deregulation degli agenti, facciamo tutto e ormai vale tutto, è il contrario di tutto. Sì. Chiaro che ogni calciatore che ha una clausola è sul mercato. Bravo, esatto. Cioè, ho già detto, questo deve essere chiaro, cioè, ma non perché lo diciamo noi, ma per la legge internazionale. Cioè, tu metti... Quindi questo è un dato di fatto. Poi le clausole si possono scrivere, bisogna vedere come sono scritte, l'importante è che venga rispettata la legge. Esatto. La legge che quindi, riguarda la fiscalità, riguarda chiaro, tutto il resto. Poi qui vediamo, perché qualche problema, parlavamo prima di papà Neymar, qualche problema con il fisco esiste, ricordiamo che nel 2016 c'è una sentenza. Tanti problemi col fisco, no. Tanti non hanno problemi col fisco. Come dicono i francesi, gourmand. Gourmand, aspettiamo quelli col fisco francese. Fabio, no, ma quello che intendevo dire è che... 222 il trasferimento di Neymar, però è chiaro che questo non può essere un parametro di riferimento, no? No, è talmente una cosa enorme che non puoi dire ok, se sono 222 però... per Neymar, allora da lì fai il parametro. 222, sono 222 per Neymar perché stava scritto 222. Bravissimo, esatto. Probabilmente se fossero stati anche 522 e si alza una mattina un personaggio che per lui 522 milioni di euro sono come per noi 5 caffè. Bravo, esatto. Decide, oggi voglio bere 5 caffè, poi se mi salta la pressione prendo la pastiglia e domani mi passa. Bravissimo. E lì è esattamente la stessa cosa. Il problema è che in un sistema, ho sentito parlare prima di Superlega Europea e altre cose, in un sistema dove ci sono talmente tante diversità, perché nello stesso sistema vanno a competere società che hanno dei ricavi completamente diversi. Perfetto, sia esatto. Per quello che riguarda la loro reale capacità di ricavo, quindi data dal club, quante magliette vendono, quanti abbonamenti fanno, quanto prendono i diritti televisivi, quanto sono bravi a vendere i giocatori. Esistono delle altre società che non avendo questi ricavi, però hanno delle proprietà che possono permettere tutto, e questo è quanto. Quindi, quando sento parlare di salary cap, sento parlare di bullshit, proprio dicendola, per non dire la parola italiana, che magari poi qualcuno si offende, magari bullshit è la stessa cosa, ma qualcuno non la capisce. Non sta in eccellenza. Innanzitutto, salary cap è un concetto che è stato introdotto negli Stati Uniti non per abbassare i costi, ma per mantenere l'equilibrio. Punto 1. ma infatti in un sistema, all'interno di un sistema dove tutti hanno più o meno la stessa identica capacità di operare sul mercato. No, ma certo, ma poi quindi allora mutui il sistema, imponi il salary cap che è il 60% dei tuoi ricavi e il 60% dei ricavi della Juventus, non può essere paragonato al 60% non, dei ricavi. Tu non puoi prendere solo la ciliegina dei piatti, tutta la torta. Il sistema americano qui non è replicabile, perché ad esempio nell'NBA c'è il sistema delle scelte. Non esistono i cosi, non esistono le retrocessioni, ci sono le scelte, ci sono le trade. Non è che io compro LeBron James, lo prendo solo. Ma questo è un sistema che può essere applicato nel momento stesso in cui riscrivo al 100% le regole, e per riscrivere devo dire ok, facciamo un campionato, una lega chiusa. Non solo questo, poi ci sono mille altri discorsi che tu puoi fare, nel senso che ad esempio in America tu programmi 3 stagioni perdenti per riempire le casse, quindi stare dentro queste regole. Prova a programmare 3 stagioni perdenti in Italia e spiegarlo ai tifosi, loro dicono va bene, ok, lavoriamo per il prossimo quinquennio. Ma è una cultura sportiva diversa, ma non è questo. Il problema è che qua stiamo parlando di calcio e torniamo a parlare di calcio perché la gente vuole sapere parlare di calcio. Un'altra bullshit è il fair play finanziario, perché è nascondersi dietro un filo d'erba, perché se io faccio il fair play finanziario e poi lo tramuto in sponsorizzazioni fuori mercato, vado a giocare una partita amichevole in Qatar e mi danno 30 milioni di euro per giocare una partita amichevole in Qatar, sono cose che non stanno in cielo né in terra. A questo punto non facciamo il fair play finanziario dicendo che non posso spendere quello che cacchio voglio. Se io voglio spendere 1 miliardo per comprarmi Neymar, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Donnarumma e chiunque altro, e ce li ho, li metto. Il fair play finanziario deve essere fatto per chi li spende e non li ha. Bravissimo. La gente, Fabio, che paga gli stipendi in ritardo. Io adesso sai cosa faccio? Spengo il microfono, tolgo la gente che non paga i fornitori, la gente. Fabio, sono i principi da mettere a posto. Fabio, se io adesso voglio spendere 500 milioni, scusa, e finisco lo sfogo. Se voglio spendere 500 milioni, ma faccio un assegno circolare, è mio diritto, i soldi sono miei. Senti, hai capito? Io adesso metto giù la cuffia, spengo il microfono, vado a farmi un caffè e vai avanti tu, perché tanto questo qui è la fotocopia del mio pensiero. No, un'ultima cosa che ti volevo chiedere, che mi intriga invece, che ho chiesto prima a Leonardo Bertozzi, ovviamente è difficile immaginare i numeri, un giocatore come Neymar quanto ti può portare? Cioè tu spendi quello, cosa ti può tornare dal punto di vista economico? A spanne è così, giusto per divertissement. Sai, comunque a questo punto subentrano delle altre dinamiche, cose dinamiche, tipo sponsor comuni, il fatto che la vendita del merchandising fuori dall'Italia sia una cosa seria, che ci si possano aprire dei mercati, che chiaramente ora se tu vorrai andare a vedere Paris Saint-Germain, vorrai avere Paris Saint-Germain in un amichevole, vorrai vedere Paris Saint-Germain come sponsor, vorrai avere, sicuramente ti costerà più caro. No, ma per dirti, hai sentito Leonardo Bertozzi? Sono quei giocatori che spostano gli equilibri sia sul campo che fuori dal campo, forse ancora di più fuori dal campo. D'altra parte, hai sentito, credo prima, Leonardo Bertozzi di ESPN Brasil, che diceva: noi abbiamo i diritti per trasmettere il campionato francese, se li avevamo già, durano ancora un anno e poi si scatenerà un'asta che fanno a coltellate, capito? Magari fanno a coltellate, economicamente parlando. Marchinho, Thiago Silva, Neymar, gli altri portoghesi che hanno, gli altri brasiliani. Non è difficile, non sono cose difficili da capire, da immaginare, Fabio. Però noi continueremo sempre a. Non ci stuferemo mai di spiegarle con le parole più semplici possibili ai nostri ascoltatori, che possono tranquillamente non essere d'accordo, e mi fa piacere se intervengono con voci contrarie e dissonanti. Fabio Parisi ha la mia stessa, quindi potrebbe fare. Siamo intercambiabili da questo punto di vista per quanto riguarda questi pensieri. Grazie Fabio. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio. Ciao. Facci in tempo, Alessandro da Palermo, raga. Sì, Alessandro da Palermo, 800240024, numero verde, dica. Salve, buongiorno. Salve, Alessandro. Buongiorno a lei. Volevo parlare della gestione di Neymar. Di Neymar, in pratica, io a posto della Juventus darei al volo Dybala al Barcellona. Sì. E con quei soldini, almeno 120-130, prenderei Alexis Sanchez per 70-80. È un buon centrocampista. Un consiglio che do a Marotta. Poi un'altra cosa, se mi è possibile dirlo, vorrei fare una classifica, secondo personale, dei 5 migliori giornalisti in Italia. Posso? Sì. Carlo Genta, Fabio Tavelli, che mi dispiace tantissimo non sia più lì con voi. Sì, da qui comincio a concordare. Il grande Gigi Garanzini. Sì, e qui concordo. Samir Jacobelli. Sì. E Maurizio Crosetti. Perfetto. È sempre un piacere ascoltare voi cinque parlare di calcio. Beh, lasci fuori me, per favor. Senta, comunque la ringrazio, Alessandro da Palermo. Non lo so se io farei l'operazione che lei ha detto. Certamente... Se arriva un'offerta per Dybala, la Juventus la valuterà con calma, e la Juventus comunque, ripeto, non è club da last minute, cioè nel senso che se la cessione di Dybala, ogni movimento viene pianificato e programmato. Non so se ovviamente con le loro conoscenze avessero sentore di un trasferimento di questo tipo, se avevano questo sentore, allora si saranno organizzati per tempo e sapremo con calma. Tanto ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. 800 24 00 24 è il numero verde. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Per me le cose vanno di pari passo, sicuramente è passata una settimana, sicuramente ci... abbiamo smaltito anche il fuso orario, che è stato anche un po' tralasciato perché è venuto solo 3 giorni per preparare la partita dal rientro dalla Cina, e quindi mi aspetto che sulla tenuta fisica ci siano dei miglioramenti, ma li vedo anche e soprattutto in allenamento, però vanno integrati con la tenuta mentale che è importante in ugual misura. È un'emozione, una soddisfazione e anche una responsabilità. Insomma, il pubblico, il tifoso milanista con questa affluenza ci ha dimostrato davvero di credere in noi, di credere nella società e nel lavoro che ha svolto la società. Quindi preventivamente ci stanno dimostrando tutto il loro sostegno e il loro affetto e anche il loro amore. Quindi veramente si sta creando un entusiasmo importante per grandi obiettivi, e quindi questo va alimentato, va tenuto acceso, e sicuramente da parte nostra sarà il campo a dimostrare questo, quindi c'è veramente grande curiosità anche di questo. Da Neymar al Milan, ovviamente il domino Neymar è aperto e questo è tutto molto interessante. 800 24 00 24, sono cose che scopriremo vivendo, non c'è altra maniera. Io saluto il mio amico Ciccio Ordine, che invece si trova, ho paura, sono felice per lui, in un posto un pelo più gradevole di dove sono io adesso. Buongiorno maestro. Buongiorno. Allora, buongiorno. Sicuramente molto più gradevole. Mi descrivi minuziosamente cosa stai vedendo in questo momento? Guarda, in questo momento io ho davanti a me il mare della Romagna. Sì. E sono sdraiato in maniera, diciamo, lasciva. Sì. Su una sedia. Sul terrazzo di casa mia. Sul terrazzo di casa mia. A Milano Marittima. Fantastico. Hai appena pranzato? No, io pranzo solo con la frutta, perché tento disperatamente di stare nel peso. Tra i riparti ci riesci perfettamente, che sei un figurino. L'avete visto, esatto, in TV Francordia, non c'è bisogno che ve lo dica io. Senti, a me il numero che colpisce in questo caso non sono i 222 per Neymar, ma sono i 60.000 che andranno il 4 di agosto a San Siro a vedere preliminare di Europa League ritorno Universitate a Craiova, avversario di turno. No, che vanno stasera naturalmente, e quindi è il 3 agosto, scusa, ma se era il 4 non penso ci fosse molta differenza. No, erano 30.000. No, comunque... Fa impressione, è Milan Cavese, questa? No, non fa impressione. Io devo dire che è la diretta conseguenza di quello che è successo dal 13 aprile in avanti. Sì. La diretta conseguenza dell'arrivo di tanti giocatori e la diretta conseguenza dell'apertura di credito meritata fin qui da parte dei tifosi nei confronti del nuovo azionista e del suo management, e anche a me, devo dire, ha fatto un po' la stessa impressione che fece Milan Cavallo, la famosa trovata dell'86-87, sì. Quando al primo raduno dell'era Berlusconi arrivarono gli elicotteri all'arena, Valchiria, sì, sì, sì. All'arena, e il risultato prodigioso fu i 50.000 abbonati subito dopo. Quello è il paragone che secondo me in questo momento possiamo fare e dobbiamo fare. Sì, sì, no, a me appunto è venuto in mente un altro episodio che, per chi non lo, che no, per chi non lo sapesse, 60.000 presenze a un Milan Cavese di Serie B qualche annetto fa. Sì, lì era la conseguenza, come dire, di una ferita cioè era come dire un tipo di reazione affettiva, emotiva a qualcosa di diverso. Qui è invece è come se fosse finito l'attraversamento del deserto. Bravissimo, sì, sì, sì, che è durato 3-4 ore. La sensazione è quella. Senti Ciccio, due cose veloci. Allora, altri due elementi curiosità per la partita di stasera. Ci si domanda come verrà accolto dai 60.000, che sono pochi, quindi non è un palcoscenico per quattro gatti. Donnarumma, Montella ha detto queste cose. Aspetta, sentiamo Montella, sì, sì. Poi sentiamo Franco Ordine. Sì. L'estate di Gigio e della famiglia anche sia stata di grande crescita anche, no? del ragazzo soprattutto. È stato al centro dell'attenzione per tanti mesi, ha dovuto subire, torto a ragione non lo so, non mi va di sindacarlo, tante sollecitazioni, no? anche dai tifosi, e quindi è cresciuto ulteriormente. Mi auguro che domani ci possa essere una giusta accoglienza per lui. Così come ha finito l'anno scorso, perché è un ragazzo, perché ha dimostrato amore per il Milan, magari ci ha messo un po', ma a livello contrattuale ci può stare, quindi mi auguro che ci sia il solito affetto per Gigi, perché è un ragazzo, perché ne ha bisogno, perché ha dimostrato di amare il Milan. Allora, già che ci siamo, altro tema, risposta cumulativa di Franco Ordine, sempre Montella, su un'altra questione ordine del giorno, la fascia di capitano. Per me, io ho la mia commissione, ragazzi lo sanno, dentro la squadra, che non deve parlare soltanto chi porta la fascia, ma esiste una commissione, e quindi con me e con la società possono parlare quando vogliono chi vuole in questo. Dico dinamiche di gruppo o esigenze di gruppo, è molto semplice. In passato il capitano del Milan è stato scelto sempre istituzionalmente dalla società, cosa che in parte ha fatto anche questa nuova società, che mi hanno chiesto di scegliere tra nuovi acquisti un capitano per sancire un nuovo corso, e quindi io mi sto prendendo ancora un po' di tempo per scegliere questo. Allora, questi due argomenti, accoglienza di Donnarumma, fascia di capitano, con un inciso, e poi lascio la risposta totalmente a Franco Ordine, con un inciso, quella fascia di capitano starebbe perfettamente sul braccio di Bonucci, secondo me, a mio parere, come si è detto e scritto da molte parti. L'inciso è, ma le fideiussioni relative a Bonucci e Biglia, che fine hanno fatto, Ciccio? Sì, allora, cominciamo dal primo argomento, cioè sì, l'accoglienza a Gigio Donnarumma. Io vi dico, sintonizzatevi con San Siro quando ci sarà l'uscita della squadra, solitamente viene anticipata dai tre portieri che vanno a fare il riscaldamento in anticipo rispetto a tutti gli altri, e sentirete un boato del pubblico di San Siro rivolto a Donnarumma. Secondo me, diciamo, tutto quello che è successo più in Polonia, devo dire francamente, oltre che sul web in Italia, secondo me sarà presto sotterrato da affetto, considerazione, soprattutto credo che abbia molto influito il paratone della partita d'andata. Sì, però Ciccio, un boato di affetto? Secondo sì, te? Sì, ah, okay. Sì. Secondo argomento, fascia da capitano. Intanto correggo il popolare Montella, non è assolutamente vero che il capitano veniva scelto dalla società. Nell'era Berlusconi il capitano è stato scelto, era come in caserma, l'anzianità faceva grado. Ha cominciato Franco Baresi, poi è andato a Maldini e via dicendo. Quindi sì, sì, ci sono stati soltanto, diciamo, due capitani storici. È vero che l'ultimo capitano è stato scelto dalla società, in particolare dal presidente Berlusconi, cioè Montolivo, ma perché in quel momento rappresentava l'unico, diciamo, tra virgolette, elemento esperto di una squadra che era stata completamente rinnovata dopo la partenza e l'addio dei vecchi santoni del Milan. Argomento capitano, secondo me sta benissimo sul braccio di Leonardo Bonucci, perché intanto perché rappresenta un po', diciamo, il pezzo forte del mercato del Milan, un po' perché rappresenta la grande incarna in qualche modo il verbo juventino che ha sempre vinto, e poi soprattutto perché secondo me è giusto che ci sia uno che magari ha anche, come diceva Montanelli, a proposito del carattere, ha anche un brutto carattere, ma avere un brutto carattere significa avere un carattere, certo. E poi sa come si fa non solo a vincere, ma anche a gestire varie faccende all'interno dello spogliatoio, nel rapporto con gli arbitri, eccetera eccetera. Ciccio, per chiudere, ma questa storia di fideiussioni com'è? Cioè, non sono ancora arrivato alle fideiussioni relativa agli acquisti di Biglia e Bonucci. Sì, la questione delle fideiussioni relativa agli acquisti di Bonucci e di Biglia, aperta parentesi, in questo momento il Milan è l'unica società in Italia che ha presentato le fideiussioni per i precedenti acquisti, chiusa parentesi, dovrebbero arrivare l'11 di agosto. Ah, perfetto, quindi è una questione di tempistica, veramente banalmente poiché, di tempistica. Poiché mentre prima le fideiussioni dovevano arrivare da Fininvest, che aveva il suo conto corrente in Italia, adesso le fideiussioni devono arrivare da Hong Kong. E quindi, da dove c'è la società di Hugo Gri, e quindi è un po' più complicato. Questo è di pratiche bancarie. Va bene, grazie Ciccio. Senti, saluti, buona, un abbraccione. Un abbraccione a te. Un abbraccione a te e al mare che stai guardando. Traffico, poi abbiamo diversi ascoltatori, siamo un po' compressi. E poi stasera, ragazzi, anzi domani, inizia i mondiali di atletica a Londra, Siete tutti convocati, siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Tutti convocati. Mi perdoneranno loro signori se andiamo un po' di corsa, però io vorrei parlare con gli ascoltatori, con Carlo, Andrea e Claudio, e poi abbiamo da aprire la pagina dei mondiali di atletica che iniziano domani a Londra. Allora, ringrazio anche chi mi ricorda, ma non è che avessi dimenticato, che la clausola relativa a Neymar, 222 milioni, è stata pagata, che il giocatore è andato ad Oporto ieri a effettuare le visite mediche per il Paris Saint-Germain, ma la clausola ieri non era ancora stata pagata, e il Barcellona si è incazzato, e vorrebbe fargli pagare la multa, insomma, schermaglie e dettagli, compreso il fatto che la Liga spagnola ha detto questo trasferimento non lo accettiamo. Sono tutti fronti, per adesso sono ovviamente notizie di cronaca, ma sono fronti da approfondire con calma. Volevamo farlo oggi, non abbiamo tempo, lo faremo certamente domani. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ciao. Senta, no, ciao. Mi chiedevo, no, se non sembrasse strano solo a me, sì, o comunque ai francesi, che insomma a regalare Neymar al Paris Saint-Germain c'è stato il Qatar, che è uno dei paesi che è accusato di finanziare il terrorismo, no, internazionale. Dico, Parigi è stata scelta come emblema per il terrorismo internazionale, e poi lo stesso Qatar che... Finisca. No, vabbè, questo si è capito, penso, no? Sì, si è capito. In Italia abbiamo diversi problemi. Come diceva Johnny, l'avvocato di Johnny Stecchino, siccità, il traffico, poi come erano gli altri problemi di Balemmo. Ragazzi, non generalizziamo, cioè i proprietari del Paris Saint-Germain sono catarioti. Non hanno alcuna inchiesta pendente per finanziamento al terrorismo, Il Qatar è organizzatore dei prossimi mondiali, se volete mettiamo in discussione anche questo e facciamo tutto il calderone con l'ISIS. Questo è quanto, non mi sembra il caso di andare oltre con collegamenti interessanti, ma forse un po' bizzarri. Andrea, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi convocato. No, ma grazie a lei. Allora, fair play finanziario, dato che è stato un palese fallimento, salary cap inammissibile, probabilmente bisognerebbe tornare a quelle che sono le regole della finanza e della buona amministrazione di qualsiasi società, sì, che sarebbe essere introdotte. Cioè, io i soldi è giusto che li spenda, e li spenda come dicevate prima, 5 caffè sono 220 milioni, sì, li spendo, non c'è problema. Però sarebbe giusto allora che qualsiasi società, dalla più grande alla più piccola, a fine agosto, a fine luglio, potesse e dovesse presentare un bilancio in pareggio, dove il bilancio in pareggio, stipendi pagati, gli consente di operare e di accedere alla Champions League, Europa League. Attenzione, Andrea, e di poter accedere al campionato. Questo è quello che succede. Ad esempio, lei saprà perfettamente perché, ad esempio, club come il Barcellona, il Real Madrid, possiamo aggiungere il Manchester United, eccetera, potevano andare dalle banche. Florentino Perez andava dalla banca: scusa, mi presti 200 milioni? Certo, ti presto 200 milioni, ma non soltanto perché sei mio amico, lasciamo stare la storia Banco Santander, non soltanto perché sei mio amico, perché so che tu fai utili e gli interessi non sono minimamente in discussione. E quindi queste sono le ragioni. È chiaro che cammini sui debiti, ma non su una crosta di ghiaccio, perché io fatturo questo e quindi la banca ti presta 200, 300, 400 milioni, non che sono fessi, perché sanno che tu non avrai mai problemi a pagare gli interessi. Claudio, Bayern Monaco, posso andare avanti con l'elenco, ma lo sapete anche voi. Claudio, buongiorno. Sono qui. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Noi siamo in questa Romagna rovente, ma non siamo al mare, purtroppo. Sì, noi siamo in questa Lombardia rovente e il mare non c'è, dica. No, due considerazioni velocissime e una domanda provocatoria. Prego. La prima, io credo che se uno Stato, come è il Qatar, sì, fa parlare di sé di continuo spendendo 300, 400, 500 milioni di euro, è un'operazione di marketing o di business intelligente, costa, sì, meno che tante altre cose. Esatto. Poi che capiti con lo sport, questo è un altro discorso. D'accordo con lei. La seconda considerazione è che trovo viceversa, non scandalosa, che è una parola che non dice un tubo, ma oggi il nostro miglior nuotatore o il nostro miglior atleta, sì, l'Italia nell'atletica, prende sicuramente meno di quello che prende un medio giocatore di Serie B. Allora Claudio, ma purtroppo sono di corsa, l'argomento mi interessa molto. Sulla prima parte sono d'accordo, perché i soldi non li butta via nessuno, nemmeno gli arabi, ok? Quindi che regalino i soldi, mi sembra non ci sia in giro nessuno, altrimenti presentatemelo. Sulla seconda questione, torno a ripetere il discorso, sono leggi di mercato, baby. Il mercato funziona così, quindi per lo stesso discorso nessuno butta via i soldi. È chiaro che se mi convenisse dare 2 milioni di euro a che ne so, Federica Pellegrini come testimonio di qualunque cosa, perché poi me ne ritornano 3, queste sono le leggi di mercato. Mi spiace molto che il tempo sia stretto oggi, perché con Giorgio Rondelli vorrei parlare in maniera più complessa e compiuta su ciò che succederà da domani a Londra, ma lo faremo magari domani stesso. Ciao Giorgio. Buon pomeriggio a te. Che piacere. Allora, come mi apri la porta di questi mondiali? Come ti apro la porta? Con la chiave? Le chiavi sono fondamentalmente due, l'ultima... Sì. Le ultime due grandi recite di Usain Bolt, che chiude la sua straordinaria carriera a metà ancora relativamente giovani, perché solo il 21 agosto compirà 31 anni, e poi si spera che siano giochi più puliti, giochi mondiali rispetto alle ultime edizioni, per cui poi molte medaglie vengono riassegnate nel tempo. Che sia tutto azzerato io ci credo poco, però se anche in percentuale qualcosa sarà più pulito, ben venga. Ma perché dici così? Perché sei sicuro di questo? Cioè, qual è la ragione? Ma perché da sempre il doping corre davanti all'antidoping. Questo lo sappiamo, ma perché dici che questi saranno più puliti? Ma vabbè, si è fatto molto, si sono fatti i controlli, si è arrivati anche a mettere fuori gioco una nazione storica come la Russia, che poi alcuni atleti potranno gareggiare sotto la sigla degli stati indipendenti. Sì, quindi sì. Qualcosa è stato fatto, quindi mi auguro che si continui così. Ripeto, non si arriverà mai all'opzione zero, perché mi sembra impossibile. No, ci sono recente... Giorgio, abbiamo un discorso che abbiamo fatto molte volte, che a me appassiona. Ci sono due strade opposte e comunque senza compromesso. Non esistono più le mezze stagioni, ma secondo me non devono esistere neanche le mezze misure. O facciamo la liberalizzazione del doping per gli atleti professionisti e solo per quelli, e allora a quel punto presenti ovviamente quello che prendi, fai le regole che vuoi e dai tutte le risorse che hai a disposizione ai controlli a tappeto di dilettanti, giovanili, di chi si avvicina allo sport, di chi semiagonisti, e li metti in prigione. Oppure fai così: il primo che becchi, cioè chi becchi, non è che lo squalifichi 2 anni, non mette più le scarpe, la tuta, i pantaloncini, capito? Cioè, io la penso così. Una buona opzione. Draconiane, dai, però è l'unica via. Dal punto di vista agonistico, cosa ti aspetti al di là di Bolt? Ma sai, diciamo, dove mettiamo le bandierine? Intanto notizia di oggi che il suo principale avversario, il canadese Andre de Grasse, si è infortunato al disco femorale e non sarà lì, cosa che ha fatto sorridere molti, anche perché questo de Grasse ha lo stesso sponsor tecnico, la Puma, di Usain Bolt. Sì. Non sarà certo un Usain Bolt devastante, ma dovrebbe essere comunque sufficiente a vincere i 100 metri e penso anche la staffetta, perché comunque la nazionale giamaicana con gli altri componenti mi sembra comunque una spanna avanti anche, certo, anche agli Stati Uniti. Quindi non farà i 200, che invece era una specialità molto più dura da preparare. Lui quest'anno, insomma, sicuramente si è allenato meno degli altri anni, sì. E poi comunque viene da 8, 9, 10 anni ad altissimo livello. Sì. Invece, per quanto riguarda i nostri colori, che ovviamente saranno protagonisti in maniera relativa di questi mondiali, come sappiamo, ovviamente abbiamo un atleta di punta che, mi hanno detto prima, è in una bolla premondiale, si chiama Jimbo Tamberi. Lo lasciamo, naturalmente lo convocheremo, ma in una bolla premondiale. Beh sì, diciamo che allora abbiamo un atleta da medaglia, quale possibile anche d'oro, che è la mazzatrice Antonella Pallisano sui 20 km, quarta l'anno scorso a Rio. Come Jimbo Tamberi, su una schedina metteremo uno e due, può fare un numero incredibile, però un po' più difficile in tempi brevi, visto che comunque ha saltato 2,28 e dovrebbe salire di 5-6 cm per lottare per le medaglie, e così. Però ha la classe per farlo. Io direi qui, poi un outsider, ma forse è stato talmente coperto e talmente poco competitivo che magari Daniele Meucci nella maratona, sì. Ma siamo qui, cioè se va storta la marcia e Tamberi non riesce a risorgere, siamo il terzo zero consecutivo dopo gli ultimi mondiali e gli ultimi olimpiadi. Tu fai bene a ricordarlo per la cronaca, ma dato che molti lo sanno, me compreso, è girare col terreno a piaga, lo sai Giorgio. lo so, sì, lo so, perché oltretutto anche a livello di varie federazioni, venendo dai campionati mondiali di nuoto che sono stati straordinari per risultati e per la conferma di grandi personaggi, la critica di casa nostra soffre. Diciamo soffre che fa un po' più fatica, per non intristirci più di tanto. Giorgio, ci sentiamo nella strada facendo. Sì, dai, va bene, volentieri, vi accompagno volentieri. Accompagnaci un po' in questi mondiali che cominciano domani, ripeto, a Londra. Noi dobbiamo fermarci, ok? Domani di nuovo Neymar, fronte spagnolo, la Liga che dice no, argomenti ce ne sono tantissimi. Giorgio De Luca, nostro autore, Filippo Aureggi in regia. Ciao ragazzi, appunto, tutti convocati domani alle 14. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti!